e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a te Deborah, ai nostri ascoltatori. Buon lunedì. Guarda questa pioggia, figurati, sai che sono meteopatica io. Sì, qua a Milano si va in barca. Ma poi tutta la settimana andiamo avanti, vabbè. Però dai, il weekend è andato meglio, no? Molto meglio, tra l'altro peccato che sabato non eravamo in onda perché avremmo potuto festeggiare insieme la giornata europea dei vicini. Ma noi siamo le presidentesse di questa giornata, visto che siamo vicine di casa... Tutti i giorni. Tra l'altro l'edizione di quest'anno è proprio dedicata al tema della comprensione. Pensa io e te come siamo diverse e come ci comprendiamo bene. È vero, infatti. E allora, voi li conoscete peraltro i vostri vicini? Siete sicuri di essere dei buoni compagni di magari pianerottolo di condominio? Chissà se ce lo vogliono raccontare i nostri amici al 349-238-6666. Mandateci qualche messaggio che ci fa un po' sorridere stamattina. Andiamo con la rassegna stampa intanto. Partiamo con le notizie finanziarie. Questa mattina la settimana parte bene per la borsa, soprattutto per Piazza Affari, che già segna un rialzo dello 0,43%. Abbiamo invece maggiore indecisione fra gli altri listini, perché Parigi è negativa, meno 0,12%, e Francoforte è positiva, più 0,27%. Oggi manca l'appello Londra, chiusa per festività per il Memorial Day, ed è la stessa ricorrenza che oggi si celebra negli Stati Uniti. Anche Wall Street sarà chiusa. A Piazza Affari corrono stamattina Fiat più 2,25%, Monte dei Paschi più 2, Anima Holding più 1,78%, abbiamo un rialzo di 1,5% per il Banco Popolare, più 1,26% per Banca Mediolanum, più 1 per la Pop Milano, in calo di 0,5% circa Yux, Net-a-Porter e Buzzi Unicem. Una settimana ricca di appuntamenti, abbiamo la riunione della Banca Centrale Americana, oggi torna un appuntamento anche con le aste di titoli di Stato. Il Tesoro italiano mette sul mercato fra i 6 miliardi e 7 miliardi e mezzo di BTP a 5-10 anni. Fra un'oretta circa sapremo com'è andata. Si avvicina il 16 giugno. A breve diversi contribuenti sono chiamati alla cassa per le imposte sulla casa. Molti di noi però possono dormire sonni tranquilli, perché da quest'anno, come sapete, grazie alla legge di stabilità 2016, l'abitazione principale è del tutto esente da imposte comunali. All'esenzione IMU si è aggiunta anche l'esenzione dalla TASI. Rimangono soggetti a IMU TASI, e quindi i proprietari devono pagare, le case di lusso, ovvero appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Qualora si tratti di immobili di interesse storico, la base imponibile è ridotta alla metà. L'aliquota base IMU è quella del 4 per 1000, con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione sino ad un massimo del 2 per 1000, e compete la detrazione di 200 euro che i comuni possono elevare sino a concorrenza appunto dell'imposta dovuta. Al più presto una puntata di Cuore e Denari con tutte le informazioni dedicate a questa scadenza. Sprechi alimentari, come sapete, è un tema che a me, Nicoletta, piace molto, lo affrontiamo molto spesso da ogni punto di vista, di Cuore e di Denari. Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo d'intesa fra Confesercenti e Federconsumatori per dare maggiori garanzie ai consumatori e alle imprese che operano nella totale legalità, soprattutto nei comparti dell'e-commerce, del turismo e dell'alimentare. Molte le iniziative previste, a partire dall'avvio di una piattaforma online e offline di condivisione dei prodotti alimentari. Consumatori e imprese hanno la possibilità, appunto utilizzando questa piattaforma, a fine giornata di vendere e comprare cibo facilmente deperibile a prezzi convenienti, evitando che la maggior parte di questi finisca naturalmente nel cassonetto dell'immondizia. Nell'ambito invece della lotta alla contraffazione, perché anche quella alimentare purtroppo è molto diffusa, le due organizzazioni hanno messo a punto un'app, un'applicazione per smartphone e tablet, che offre la possibilità al consumatore di individuare i siti non a norma. E allora anch'io, Deborah, ti parlo di una app. Ottimo. È un'app ideata dall'Associazione Medici per San Ciro Onlus di Grottaglie. Perché te ne parlo e soprattutto come funziona? Bene, la sua attivazione consente di chiamare il 118 e attivare la rete di soccorritori volontari nelle vicinanze. Ma la bellezza è che ciascuno di noi con questo sistema può diventare un angelo del cuore, ricevendo richieste di soccorso e diventando così parte attiva nella rete. Ogni richiesta ricevuta contiene indirizzo del luogo dell'emergenza ed un elenco dei defibrillatori più vicini, con tutti i dettagli utili, come il numero del gestore e una foto per localizzarlo. Intanto, a proposito di cuore, ricordiamo che nella seconda parte della trasmissione vi aspettiamo per parlare di cuore cuore con il nostro progetto I colori del cuore. Il colore di questo mese è rosso e noi ci chiederemo se la passione è amica del cuore, soprattutto se le pilloline dell'amore fanno bene al cuore. Avete una moglie che vi assilla? Forse lo fa per proteggere la vostra salute? Lo so che l'affermazione vi lascia perplessi, ma i ricercatori del Michigan State University, dopo aver preso in esame i risultati di un sondaggio su 1228 intervistati sposati nel corso di 5 anni, sono arrivati alla conclusione che gli uomini che vivono relazioni di coppia tumultuose o non molto felici hanno meno probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 della serie non tutto il male viene per nuocere. Ma moglie a parte, il diabete si previene anche a tavola. Ci sono dei piccoli cambiamenti che costano poco e rendono molto. Fra questi, iniziare la mattina consumando una buona prima colazione. L'abitudine a fornire regolarmente al nostro organismo un pasto ben bilanciato ha effetti preventivi sul diabete di tipo 2 e anche su altre malattie come l'obesità e le malattie cardiovascolari. Allora, sulle nostre pagine abbiamo pensato di proporvi una selezione di ricette per iniziare la giornata con una buona prima colazione. E per chiudere parliamo di artrosi. Consolatevi, i nostri antenati romani ne soffrivano già a partire dai 30 anni a causa dei grossi carichi di lavoro che lo scheletro sopportava. A questa conclusione è giunta uno studio che è stato proposto e finanziato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Ma se agli antichi romani noi non possiamo più dare consigli, vi invitiamo a capire soprattutto la differenza tra artrosi e artrite. La localizzazione e il modo in cui insorge il dolore può darvi un'indicazione, quindi andate sulle pagine di Cuore Denari. Il professor Carlo Selmi, responsabile della sezione di reumatologia dell'Humanitas di Milano, ci dà tutte le indicazioni. E poi occhio alla dieta, limitiamo gli alimenti molto raffinati, trattati, zucchero, i sale, i grassi saturi, per tenere sotto controllo il colesterolo che è nemico delle nostre articolazioni, e impariamo a iniziare la nostra giornata con un buon bicchiere d'acqua. Perché? Perché l'acqua aiuta a idratare anche le cartilagini, e quindi iniziamo bene la giornata con una buona colazione. Allora, intanto abbiamo il nostro primo approfondimento di denari. È tempo di dichiarazione dei redditi, cara la mia Nicoletta. Sì, per questo bisogna mangiare altro che a colazione. Esatto. Per digerire la mattina, una cosa del genere, esatto. Affrontarla. Allora, molti contribuenti, intanto naturalmente ci sono quelli contenti che quest'anno, come dicevamo prima sulla casa, non devono pagare nulla, ma ce ne sono invece tanti altri che, oltre a fare il bilancio tra le tasse che devono versare e sconti fiscali dei quali possono usufruire, stanno facendo anche la scelta dell'associazione o dell'organizzazione a cui devolvere il 5 per 1000. Sapete bene di che cosa si tratta? È quella parte di IRPEF che ogni cittadino può decidere di girare e devolvere a tutte le onlus impegnate in progetti e attività di utilità sociale. I soggetti cui può essere devoluto il contributo sono davvero tanti, fra organizzazioni internazionali, qualcuno anche molto nota, ma ci sono anche piccole associazioni sportive e dilettantistiche che possono ricevere questo contributo, sono tutte regolarmente accreditate appunto per ottenerlo. Allora, noi naturalmente sappiamo che è un tema che è molto gettonato fra i nostri ascoltatori, per cui se hanno delle domande questa mattina ce le possono fare all'800 24 00 24, ma più che rispondere noi ovviamente ce ne guardiamo bene di rispondere sui temi fiscali. Allora, questa responsabilità oggi viene totalmente attribuita a Giampaolo Concari, commercialista esperto in questioni fiscali del mondo no profit, che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato. Ogni anno lo ripeschiamo su questo argomento, sarà ben felice. Buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuto. I radioascoltatori, buongiorno, grazie. Allora, il 5 per 1000 è proprio in questa stagione uno degli strumenti che ognuno di noi, Concari, ha a disposizione per sostenere le organizzazioni del terzo settore, però noi sentiamo parlare anche di 8 per 1000 per le confessioni religiose, di 2 per 1000 per sostenere eventualmente la formazione politica del nostro cuore. Facciamo un quadro di riepilogo per i nostri ascoltatori più confusi. Bisogna esprimerle tutte queste preferenze? Sono, come dire, obbligatorie davanti al commercialista mettere la crocetta davanti ad una di queste opzioni, oppure sono delle alternative l'una all'altra? Ci spiega un po' come funziona? Allora, la possibilità di attribuire i vari per mille della nostra IRPEF a vari soggetti sono esattamente quattro. Allora, c'è l'8 per mille alle confessioni religiose o allo Stato, il 5 per mille alle associazioni di volontariato, chiamiamole così, ci mettiamo dentro anche le associazioni sportive dilettantistiche, e il 2 per mille alla cultura, alle associazioni culturali, 2 per mille ai partiti politici. Ciascuna di queste scelte può essere effettuata indipendentemente dalle altre, quindi non è che uno deve fare tutte e quattro le scelte, ne può fare una, ne può fare due, ne può fare anche tre. Oppure quattro, crepi l'avarizia. Crepi l'avarizia mi è piaciuta. L'8 per mille è differente rispetto alle altre, perché l'8 per mille comunque viene assegnato indipendentemente dalla nostra volontà, cioè viene prelevato l'8 per mille di tutto il monte IRPEF nazionale e viene attribuito tra i vari soggetti, chiamiamoli così impropriamente, competitor, che sono riportati nelle varie schede, compreso lo Stato italiano. Francamente, con tutto il rispetto per lo Stato italiano, forse è la scelta meno oculata, dal momento che lo Stato italiano, rispetto agli obiettivi annunciati, molto spesso usa il proprio 8 per 1000 per chiudere delle fasi di bilancio o fare altre cose. Per cui, e tanto è sempre Pantalone che paga, no? Con Cari, lui dice tanto magari ecco, potremmo invece di imporre un altro tipo di tassazione prendiamoli da là direttamente, sì, quindi magari il contribuente non se ne accorge e tappiamo delle... Possiamo invece utilizzare questo 8 per 1000 un po' più in modo oculato per premiare le organizzazioni religiose che si spendono effettivamente per il bene comune. Allora, intanto è arrivato già il momento di dare la linea ai suggerimenti per chi è in viaggio. Ribadisco, i nostri ascoltatori che vogliono intervenire in diretta all'800240024, a parte il commento sull'8 per 1000, noi oggi ci focalizziamo su un altro numero che è il 5 per 1000, quindi ONLUS, organizzazioni di ricerca, medica. Così ne parliamo anche con Valeria che ci ha scritto subito. Avete dimenticato la ricerca? Mamma mia, subito, perché guarda Valeria che Nicoletta stava già lì, stava già lì pronta a banchettarmi. C'è il volontariato, ma sai che ho scoperto anche, Nicoletta, che si può devolvere al proprio comune di appartenenza? Io non me ne ero accorta. Questo non lo sapevo. E allora adesso con Cari ci spiega tutto, tra poco. Cuore e denari. È davvero devolvere il 5 per 1000 ad un'organizzazione di volontariato, grande o piccola che sia, la piccola organizzazione dilettantistica sportiva della nostra zona, addirittura il comune dove residiamo, insomma effettivamente non ci richiede tanto sforzo perché è una quota di IRPEF che diversamente devolveremo, appunto è proprio il caso di dirlo, allo Stato, invece qua la giriamo diversamente. Allora questa mattina ci sta spiegando un po' tutto l'ABC dell'operazione di quest'anno Gianpaolo Concari, commercialista esperto di questioni fiscali del mondo no profit, e se volete potete anche mandarci delle domande all'800240024 con Cari, poi dopo ci spiegherà come funziona anche la devoluzione al proprio comune di appartenenza. Ma quali sono gli impegni del contribuente che vuole destinare il 5 per 1000 ad uno degli enti aventi diritto? Insomma, cosa deve fare esattamente? È complicata la procedura? È banalmente un barrare una crocetta o bisogna indicare nello specifico l'associazione che preferiamo? Allora, per esprimere la propria preferenza occorre prendere una scheda che è o nel modello 730 o nel modello unico e in quelle schede mettere le crocette, la firma e quant'altro. Per quanto riguarda il 5 per 1000 occorre indicare il codice fiscale dell'organizzazione a cui si vuole devolvere il 5 per 1000. Così funziona anche per il partito politico, per cui c'è un codice, così funziona anche per le associazioni culturali, per cui c'è un codice fiscale da indicare. Allora, quindi ricordatevi semplicemente di avere a disposizione il codice fiscale appunto dell'associazione a cui si vuole fare la devoluzione. Con Cari, diversamente, se io firmo e basta il riquadro che ho scelto, andrà il mio 5 per 1000 andrà alla, diciamo così, al gruppo delle organizzazioni, e il 5 per 1000 così attribuito al gruppone, diciamo, viene ripartito in funzione dei voti espressi, in sostanza. Quindi quelle che hanno già avuto, diciamo, importi rilevanti, perché molti contribuenti hanno fatto la scelta verso di loro, avranno in proporzione il riparto di quello, esatto, che non è stato esplicitato appunto in devoluzione. Esatto, esatto. Io lo chiamo la devoluzione dei resti, in sostanza. La devoluzione dei resti. Hai visto com'è elegante? Com'è elegante. Senta, si fa la divisione, il resto viene diviso tra i vari. Quindi se non scegli tu direttamente, scelgono, esatto, gli altri. Comunque per l'importante te, che va a loro, che, è che comunque si dica, almeno io il 5 per 1000 al mondo del volontariato e della ricerca lo voglio dare, poi fate voi, esatto, viene ripartito quello che io non scelgo direttamente. Senta, questa storia della devoluzione proprio comune di appartenenza, invece, come funziona? Anche il comune ha un suo codice fiscale da indicare? Se è molto semplice, perché basta firmare il riquadro relativo al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza, e ovviamente l'Agenzia delle Entrate non ha bisogno del codice fiscale, perché vede già il soggetto in quale comune risiede, per cui lo associa la firma al comune di residenza e devolve il 5 per 1000 al comune. Senta, Nicoletta, no, voglio leggere il messaggio di Stefano. Sì, la leggo traducendolo, però. Sì, sì, perché diciamo, ecco, che perché c'è Stefano è un po' colorito nella sua espressione. Un po' esplicito, ecco, dire. Allora, ma se uno, dato, ci scrive, ma già ci spolpano con tasse, contributi e gabelle varie, se io decidessi di non voler dare niente a nessuno, posso? Ma sì, certamente, ma non è un obbligo. Cioè, non è che si spende di più. Cioè, se io pago 1000 euro di tasse, pago 1000 euro di tasse. Non ha importanza se poi devolvo o meno l'8, il 5, il 2. Non ha importanza. Pago sempre 1000 euro di tasse. E se esprimo le mie preferenze, di questo 1000 euro, anziché andare nel, diciamo così, nel fondo comune dello Stato, l'8 per 1000, quindi 8 euro andranno alle confessioni religiose se ho messo la crocetta. Quello che rimane via via resterà poi allo Stato, cioè non è che è una tassa in più, esattamente, la tassa è sempre quella, però viene ripartita, viene devoluta in funzione della mia scelta che voglio fare, voglio premiare appunto Tizio o Caio. Allora, Concari, detto che io penso che tutti i contribuenti italiani abbiano un'idea piuttosto chiara delle organizzazioni di volontariato ricerca a cui queste somme possono essere devolute, ammettiamo appunto che invece non si abbiano le idee chiare, ammettendo che fino a qualche tempo fa la scelta è stata fatta per una certa associazione, da quest'anno vogliamo cambiare, vogliamo avere un quadro, no, di tutte le organizzazioni, brava, che possono ricevere. Dove possiamo trovare intanto un elenco preciso? Perché appunto c'è una specifica, un obbligo specifico da parte dell'Agenzia delle Entrate per pubblicare i cosiddetti elenchi. Ed è peraltro un tema, ve lo anticipo già, lasceremo tra qualche minuto Giampaolo Concari per dare spazio nella seconda parte di Cuore e Denari ad una collega di Vita, il magazine dedicato proprio al racconto sociale, al volontariato, al mondo no profit, che ci racconterà che cosa è successo quest'anno, perché loro ogni anno si rendono protagonisti di questa campagna che si chiama Fuori le liste, chiedono all'Agenzia delle Entrate di pubblicare gli elenchi definitivi del 5 per 1000. Che cosa sono questi elenchi, Concari? A cosa servono? Appunto, il contribuente può andare a visionarli direttamente per avere un'idea delle associazioni, come dire, disponibili a ricevere questi contributi? Sì, certamente. Nel sito dell'Agenzia delle Entrate non ve lo dico tutto l'indirizzo del sito, perché altrimenti cioè sembra un po' che mi hai portato a fare sopra Posillipo, è una cosa lunghissima. La mettiamo sulle pagine del nostro, esatto, ci, però, manda il link diretto con Cari e noi lo mettiamo appunto sulle pagine, sulla, come suggeriva Nicoletta, nella home page del sito dell'Agenzia delle Entrate c'è una bel richiamo agli elenchi del 5 per 1000, proprio una notizia, una delle news. Per cui va bene, si accede attraverso quello, c'è un motore di ricerca, si può fare ricerca per nome, per codice fiscale e quant'altro. E poi ovviamente ci sono gli elenchi delle organizzazioni che fanno ricerca scientifica, delle associazioni sportive dilettantistiche, insomma è tutto lì dentro. Ecco. È a prova di quindi di è buona cosa consultare questo elenco, perché magari noi abbiamo così l'idea quest'anno di voler devolvere all'associazione sportiva dove è iscritto nostro figlio, nostro nipote. In realtà non è così semplice, perché le associazioni devono accreditarsi, e le rivolgo proprio per questo motivo questa domanda che ci fa Rodolfo, che sì. Ci scrive: sono presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica, quali sono le condizioni per richiedere e accedere ad un X per mille? Intanto penso che per quest'anno sia un po' tardi per accreditarsi, sì. Esatto, e con quanto tempo di anticipo? Perché Nicoletta ride? Perché mi è simpatico il Ma Concari è simpatico, altro il che dottor Concari, ah, perché sì. Se tu sapessi che cosa cucina quest'uomo qua, guarda, chiusa parentesi, poi magari no, poi ci mette un po' di ricettine sul guarda, nostro fa sito. Fa la pasta madre, lui è un grande panificatore, vero Concari? È vero. Chiusa parentesi, quindi ho raccontato tutto. Quindi rinfresca sempre. La pasta Vabbè. Madre. Chiusa parentesi con Concari. Uno cerca un'alternativa al lavoro che fa, perché altrimenti bisogna diversificare, bisogna essere pronti. Vedi, diversificare. Ma qua. Lo sa, questo è il nostro uomo, è un uomo di cuore e denari, Concari. Andiamo a dare le istruzioni a Rodolfo per dal prossimo anno accreditare al 5 per 1000 la sua associazione sportiva dilettantistica, Concari. Allora, c'è un apposito software dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quale si forniscono i dati necessari all'agenzia, appunto all'Agenzia delle Entrate, codice fiscale, il nome dell'organizzazione, il legale rappresentante. C'è una procedura particolare informatica attraverso cui l'agenzia poi recupera tutti questi dati, li elabora e poi pubblica gli elenchi. Il termine ultimo per l'iscrizione negli elenchi era il 9 di maggio, se non ricordo male. È possibile iscriversi in ritardo, però occorre pagare una sanzione di 258 euro, 250 non ricordo bene, comunque certo, magari con la devoluzione ne ricevono 300, devono pagare, ecco, pure infatti, la sanzione, dopo uno deve guardare bene se il gioco vale la carta. Insomma, diciamo che bisogna muoversi un po' prima. Emanuele da Bologna fa al posto mio una domanda che avrei voluto fare poi a Giampaolo Concari. Emanuele, benvenuto. Buongiorno. Facevo una domanda su questo genere. Sono un lavoratore dipendente, non ho detrazioni quest'anno, sì, e volevo sapere come fare a devolvere a un quindi ente lei diverso. Ha avuto solo il CUD, no Emanuele, ma non fa il 730. Allora Concari, sì, è vero che hanno facoltà di scelta anche i contribuenti che non presentano il modello 730? Cosa devono fare? Certamente c'è una scheda apposita del modello CU nella certificazione unica, in cui che può essere utilizzata. Il contribuente scrive, riporta il proprio codice fiscale, esprime tutte le scelte che vuole effettuare, prende la scheda, la mette in una busta chiusa e ha due possibilità: o consegnare ad un CAF, il CAF però può richiedere un obolo per il servizio, o altrimenti queste sono le regole, o altrimenti lo consegna gratuitamente all'ufficio postale più comodo. Nella busta deve indicare il proprio codice fiscale, nome e cognome, e indicare nella busta appunto anche contiene scheda devoluzione. Grazie a Giampaolo Concari, che lasciamo ai suoi impegni della mattinata, al suo pane. Noi ci fermiamo GR e poi torniamo con Gabriella Meroni di Vita. Il segnale orario vi è offerto da Semplicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovare, l'altra per sparire, una monetina. Quante monetine servono per fare un piccolo accantonamento, un piccolo risparmio, ma sono anche quelle monetine che ogni anno con la nostra dichiarazione dei redditi possiamo decidere di destinare ad associazioni e organizzazioni no profit, enti di vario tipo, attivi nel sociale, nella ricerca scientifica, ma anche nel mondo sportivo. Abbiamo prima fatto il punto della situazione su quei requisiti che sono necessari anche per accreditarsi presso l'Agenzia delle Strade, delle entrate. Mi sto incartando stamattina, e per poter naturalmente avere questa devoluzione. E stiamo parlando appunto di 5 per 1000, cuore e denari. Noi continuiamo a farlo ancora per qualche minuto con un'amica di cuore e denari, perché Gabriella ha anche lavorato qui a Radio 24 qualche anno fa, lo sai? Sì, sì. Intanto adesso è collega di Vita, il magazine dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica ed ambientale, al mondo no profit. Gabriella Meroni, eccoci qua, buongiorno e benvenute, grazie. Ciao. Grazie a te Deborah, buongiorno a tutti. Gabriella conduceva qualche anno fa con un altro nostro grande amico Riccardo Bonacina la nostra rubrica dedicata al no profit senza fine di lucro, così ce la ricordiamo bene, ci manca anche. Ricordi. Ti manchiamo un po' Gabriella, guarda ma che tanto, chiamiamo spesso, allora grazie. Va bene, volentieri. Allora, perché abbiamo scomodato Gabriella questa mattina? Perché Vita si è reso protagonista, e lo fa da un paio di anni, di una campagna di mobilitazione che si chiama Fuori le liste, fuori qua, era fuori Agenzia delle Entrate. Esatto. E quindi sostanzialmente la sensibilizzazione all'Agenzia delle Entrate a sbrigarsi a pubblicare gli elenchi definitivi del 5 per 1000. Quest'anno la campagna riguardava gli elenchi del 2014, e quindi con questa sollecitazione appunto Vita ha costretto tra virgolette l'Agenzia delle Entrate ad accelerare i lavori per la pubblicazione di questi benedetti elenchi, che poi naturalmente i contribuenti possono consultare, e sono gli elenchi di tutte le associazioni ammesse al beneficio. Allora Gabriella, ci vorrà contare questa iniziativa, perché è importante non solo per i vostri lettori, ma anche per i contribuenti. È assolutamente importante, perché il 5 per 1000, stiamo parlando di soldi pubblici, perché comunque sono soldi che i cittadini destinano alle associazioni, il 5 per 1000 deve essere trasparente, lo prevede la legge, lo raccomanda anche la Corte dei Conti, per cui è importante che tutti vengano a conoscere dove vanno a finire i soldi del 5 per 1000. Il problema è che questa destinazione si conosce con grande ritardo, perché noi abbiamo saputo adesso, grazie alla campagna a cui facevate riferimento, ad aprile 2016, dove è andato a finire il 5 per 1000 del 2014, quindi con 2 anni di ritardo, che è una cosa che dovrebbe, secondo noi, ma secondo tutti diciamo gli interessati, essere sanata quanto prima. Quindi le scelte che i contribuenti faranno quest'anno saranno rese pubbliche praticamente dall'Agenzia delle Entrate solo nel 2018. Se le cose continuassero a stare come stanno, sì. Certo, c'è da dire che la nuova legge approvata, insomma la riforma del terzo settore, dovrebbe prevedere, con dei decreti diciamo attuativi appositi, una maggiore velocità da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche perché i dati ovviamente ce li ha disponibili, si tratta semplicemente, crediamo, di dare priorità a questa sorta di trasparenza dovuta. La scelta che si fa quest'anno sarà, come dire, una questione di rendere trasparenti delle informazioni che viaggiano telematicamente, quindi non vedo anche la difficoltà di rendere più veloce l'operazione. Andiamo al sodo, Gabriella. Sì, la somma certo. dei finanziamenti del 2014, appunto quelle che sono state rese pubbliche da poco, i finanziamenti resi pubblici da poco, relativi alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi addirittura del 2013. Sì, mezzo miliardo di euro distribuiti quasi, come in Italia? Sì, allora esattamente sono 484 milioni, sono stati appunto devoluti dagli italiani, e tra l'altro gli italiani che sono 16 milioni e 600 mila, quelli che hanno scelto di firmare nei vari riquadri del 5 per 1000, un numero che è stabile già da qualche anno, e sono tantissimi. Crescono invece sempre di più gli enti che vogliono riceverlo, questo contributo, e sono arrivati nel 2014 a 45.300, di cui la stragrande maggioranza, 38.000, sono poi gli enti del volontariato, quindi quelli del non profit puro con fini di solidarietà. 45.000 soggetti accreditati e 38.000 solo del volontariato. Cioè, hai voglia di consultare queste liste per i contribuenti? Effetti, sono 1.200 pagine di PDF sul sito dell'Agenzia delle Entrate, però c'è un motore di ricerca. Infatti, riesce anche Gabriella, ti faccio la domanda di cuore a questo punto, sì, quella che farebbe Nicoletta, perché già gliela vedo lampeggiare dai suoi occhietti che luccicano. Chi riceve di più? Facciamo una suddivisione per settori, poi magari per attori. Certo, allora ovviamente il volontariato, il settore del volontariato fa la parte del leone, sfioriamo il 70% dei contributi che vanno a finire in questo settore. La regina assoluta già da moltissimi anni, ma quest'anno segna un boom di addirittura 66 milioni riceve, è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che in assoluto è la più scelta dagli italiani. Segue poi Emergency, la nota ONG, e al terzo posto la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l'Istituto di Candiolo di Torino. Anche qui siamo nell'ambito della ricerca scientifica su questa malattia, che ovviamente insomma interessa moltissime persone, che si arrivi insomma che si migliori la ricerca. Certo. Poi abbiamo Medici Senza Frontiere, AIL, sono le grandi organizzazioni che effettivamente le prime 10, questo è un dato anche che fa riflettere, fa capire, le prime 10 si accaparrano sostanzialmente il 20% del totale. Senti, ci sono dei cambiamenti, Gabriella, di anno in anno fra le scelte degli italiani, o più o meno le scelte rimangono costanti? Dunque, le prime 10 diciamo che se la giocano sempre più o meno tra di loro, magari c'è qualche scivolamento di posizione, ma poco, ecco. C'è da dire che c'è da segnalare un fenomeno che purtroppo è in crescita, cioè gli enti a zero firme. Se si scorre questo lunghissimo elenco, alla fine si scopre che ci sono tante, 1300 se non mi sbaglio, una cifra di questo genere, tante associazioni che non ricevono la firma neppure del presidente o di colui che si dà, diciamo, briga di presentare la documentazione. Ma tipo quali sono, per esempio? No, perché è interessante, visto che queste si spendono molto anche per accreditarsi, no? Certo, evidentemente certo, perché hanno la convinzione di poter ricevere qualcosa. Chi è il contribuente traditore che poi invece non ne sostiene? Ecco, questo purtroppo non si può sapere, perché un altro elemento di discussione è che di fatto le associazioni non conoscono i nominativi delle persone che firmano, che quindi destinano il 5 per 1000 insomma, a loro, e quindi non si conosce chi sono i beneficiari. Questo è un altro problema che andrebbe risolto, secondo molti ci sono problemi di privacy eccetera. Gli enti a zero firme, ovviamente, visto che nessuno li sceglie, hanno la coscienza di probabilmente non fare abbastanza, magari per rendersi così appetibili, perché c'è anche un problema insomma di farsi conoscere. Certo è che la tendenza alla polarizzazione, cioè gli enti più grandi raccolgono sempre di più e gli enti più piccoli sempre di meno, è una tendenza in atto da monitorare. Infatti, anche qui, anche per magari riorganizzare un po' la platea dei riceventi, razionalizzare, Tova, usiamo questo termine. Assolutamente. Gabriella, grazie molte per essere stata con noi, per il vostro impegno che forse andrà avanti anche l'anno prossimo, chissà se sarà necessario di nuovo richiamare all'ordine l'Agenzia delle Entrate con fuori le liste. Volevo solamente ricordare un'ultima cosa di Gabriella, perché guardando un po' i lavori che fa sul sito di Vita, ho trovato questo bellissimo articolo pubblicato pochi giorni fa, perché il 26 maggio con un convegno a Bologna si è celebrata la giornata dell'assistente familiare, e c'è Gabriella appunto che ha scritto questo bell'articolo sui caregiver familiari. Ci sono 3 milioni di italiani che in Italia si prendono cura gratis di un malato, una bella devoluzione a queste persone. Magari sarebbe necessaria, no Gabriella, che dici? Certo, assolutamente, anche alle associazioni che sostengono i malati che hanno bisogno di un caregiver, perché come dicono spesso le associazioni, aiutando i malati si aiuta anche chi si prende cura di loro. Benissimo, grazie a Gabriella Meroni. Grazie, di Vita. Grazie. Buona giornata Gabriella. Buona giornata a tutti, grazie. Allora Deborah, fino a questo momento abbiamo parlato di iniziative che fanno bene al nostro cuore, di cuore, come anticipato, continueremo a parlare anche nella seconda parte di Cuore Denari, perché di cuore ne sentiremo di tutti i colori. Puoi nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo. Può bastare. Sì, parliamo di cuore, parliamo anche un po' di amore. L'amore è una questione di cuore e di cervello. Potrebbe essere il domandone di oggi. Che cosa vi ha fatto innamorare della vostra compagna o del vostro compagno? È stato un colpo di fulmine, un incendio? Oppure il sentimento è nato a poco? A farvi innamorare sono stati piccoli dettagli, magari quelli che al primo incontro non avevate notato, o lati del carattere che poi avete avuto modo nel tempo di apprezzare. Perché? Perché vi parlo di amore? Perché in questa puntata è dedicata al cuore, oggi infatti è il secondo appuntamento dell'iniziativa Colori del Cuore, che vede al nostro fianco il De Gasperis Cardio Center dell'ospedale di Niguarda e la Fondazione De Gasperis, abbiamo pensato di lanciare una proposta anche sui social. Partecipate allora anche voi con immagini, versi, parole, racconti che parlano d'amore. Potete fare una dedica alla persona che vi fa battere il cuore, oppure descriverla in un tweet, o ancora darci la vostra personale ricetta d'amore, o ancora dirci se secondo voi in amore chi si somiglia si piglia o invece funziona la regola degli opposti, oppure mandare un SOS, una richiesta d'aiuto se il vostro cuore è solo infranto. Oggi parliamo di amore perché vogliamo parlare di cuore. In linea con noi in questo secondo appuntamento con i colori del cuore è tornata a trovarci la dottoressa Maria Frigerio. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Allora, il colore di questo appuntamento è rosso. Rosso come il cuore, rosso come la passione. Con tutte queste S che vengono insieme. Allora, facciamo un rapido sommario di oggi. E oggi ci chiederemo se l'amore fa bene al cuore o se è un'emozione che rischia di mandare in tilt il nostro cuore. Dottoressa Frigerio. Certamente è un sentimento che fa bene al cuore, ma non sempre e non in tutti i modi. Più sì che no, e, come dire, fanno bene gli amori felici, gli amori che ci impegnano, che ci chiedono qualche cosa, ma ci danno anche qualcosa. E non sempre necessariamente soltanto gli amori che implicano il sesso, ma anche l'amore nei confronti dei figli, degli amici, e senza volerli paragonare agli esseri umani, anche se qualche volta ci assomigliano davvero, anche l'amore nei confronti dei nostri animali domestici. Insomma, ci fanno bene gli amori che ci aiutano a sentirci vivi, che ci chiedono di essere vivi e ci danno anche qualche soddisfazione sul piano sessivo. Noi abbiamo, dottoressa Frigerio, a proposito di cuore, un fastidio di un rumorino che si sente come un'interferenza o qualche cosa che batte. Non so se vogliamo richiamarla, lei mette giù e noi la richiamiamo. Va bene. Vedere se passa. Proviamo. Sì, così? Così va meglio? Paolo? Allora proviamo. Quindi, allora, lei ha detto amore in generale, quindi non solamente a livello di coppia, ma amore di figli, amici, vicini, parlavamo proprio dei vicini di casa, e anche animali domestici, quindi gli amori che ci chiedono, che ci permettono di restare vivi, dottoressa Frigerio. Certamente, ma per esempio una volta si diceva che fanno bene gli amori e gli affetti stabili, ma sono pericolosi quelli clandestini. Non è così. Fonte di stress. Non necessariamente. In un'affermazione di questo tipo probabilmente c'era anche un po' di moralismo vecchio stampo, non c'è mai una regola fissa, perché se per caso è proprio quella relazione clandestina quella che ci chiede impegno, ci dà pagamento, ci fa sentire vivi, ci fa sentire apprezzati, può darsi che ci aiuti. Se invece nella relazione stabile manca, come dire, manca la curiosità, manca l'attenzione, manca il desiderio di affascinare e quindi, come dire, viene anche a, teniamo meno in considerazione anche la nostra immagine di noi stessi, allora questo non ci aiuta. Quindi, insomma, dottoressa Frigerio, sdoganiamo anche l'amore clandestino, quindi non è necessariamente un rischio per il cuore. Non necessariamente. Però, insomma, va bene. E parleremo, dottoressa, a proposito di amore, parleremo anche nel corso della trasmissione, l'avete sentito sicuramente nel promo che abbiamo fatto con Deborah, parleremo anche di pillole dell'amore. Fanno bene al cuore, lo mettono a rischio, ma ancora prima, batti cuore, dottoressa Frigerio, il cuore degli innamorati batte, veloce, sussulta, la ricerca ci dice che i due cuori innamorati battono all'unisono, ma dottoressa Frigerio, forse è davvero così, non lo so, l'importante è che il cuore batta. Ah, certamente. Ecco, perché finché batte c'è vita. Certamente. Di per sé noi pensiamo che il cuore si riposa di più, quindi si stanca di meno, quindi in teoria può campare più a lungo e noi con lui. se la frequenza dei battiti in media è piuttosto bassa che non alta. Sì, dottoressa Frigerio, ormai abbiamo deciso, la richiamiamo, perché se no non la sentiamo forte e chiara, e quando si parla, intanto dalla regia la richiamano, quando si parla di amore e di cuore, bisogna no, sentire per bene tutte le parole. La dottoressa Frigerio ha un po' sdoganato l'amore clandestino, invece io in tanti studi avevo letto che, attenzione, l'amante poi può mettere a rischio il cuore, ci sono, no, delle storie, no, l'infarto quando certo. sei, e quindi le mogli hanno detto, vedi, è la punizione. Invece la dottoressa Frigerio dice il cuore è contento quando ha un affetto, un amore, una passione che lo tiene vivo. All'800 24 00 24 potete naturalmente intervenire per fare le vostre domande, potete scriverci. Esatto, intanto che ripristiniamo la telefonata con la dottoressa Frigerio, volevo rispondere a Lucia che, oltre a ringraziarci, ci definisce delle laboriose api. Grazie Lucia, questa non ce l'aveva mai detta nessuno, ma ci piace. Sì, Moscone dice, non ci piaceva. Esatto, no. Allora, riproponendo il tema precedente, dice: già saprei a chi devolvere l'X per mille, ma ho dimenticato nomi e relativi codici a casa. Allora, penso che domani faccia ancora in tempo, a meno che non stia facendo adesso la dichiarazione dei redditi con il suo commercialista. Collegatevi su internet, cerchi di semplicemente recuperare il codice fiscale dell'associazione, e se è un'associazione importante, sicuramente, proprio siamo in questa fase di devoluzione, guardi che lo metterà in prima pagina sul suo profilo internet, per cui non penso che ci sia nulla di difficile nel ricercare questa informazione, Lucia, ecco, a meno che proprio non sia un'associazione sconosciuta o un'associazione dilettantistica delle quali parlavamo prima, certo. In questo caso sarà bene fare una telefonata. Perché vedi, la passione si può sostenere anche certo. In questo modo. Dottoressa Frigerio, tornata con noi. Sì, speriamo che forte e chiara. Bene. Allora, veniamo al dunque. Nella puntata dedicata all'amore ci domanderemo se fare l'amore fa bene al cuore. In tante occasioni a Salute Uomo abbiamo parlato di quanto l'efficienza della funzione sessuale sia una spia molto importante della salute cardiovascolare e metabolica dell'uomo, perché malattie vascolari, diabete, colesterolo alto possono dare proprio come primo segno una difficoltà di erezioni senza che vi siano altri sintomi, e per questo e abbiamo sempre invitato i nostri ascoltatori a parlarne con il medico, perché non solo perché qualsiasi difficoltà sessuale può essere risolta in maniera brillante oggi, ma anche perché questa potrebbe essere proprio un campanello d'allarme che, se trascurato, potrebbe costarci caro. Dottoressa Frigerio, allora, fare l'amore fa bene al cuore? Direi di sì, ma anche qui dobbiamo distinguere di che cosa stiamo parlando. In un certo senso fare l'amore è un po' come fare un'attività fisica, quindi un pochettino come un allenamento, con in più anche gli aspetti benefici relativi alla soddisfazione psicologica e quindi anche alle famose endorfine. Dal punto di vista dell'impegno calorico, c'è anche chi si è impegnato a misurare, che dice... In realtà non è che consumiamo poi così tanto dal punto di vista proprio dello sforzo fisico, diciamo 70-140 calorie all'ora, che sono circa il 50% di quelle che consumiamo stirando i panni, un terzo, due terzi di quello che consumiamo occupandoci del nostro giardino, metà o meno di quello che consumiamo camminando a media andatura, e purtroppo meno di metà di quelle che incameriamo se ci mangiamo un bel piatto di pasta senza neppure tener conto del condimento. Quindi... Però è anche appunto un tipo di allenamento che è piacevole e che quindi, come dire, oltretutto ci dà soddisfazione sul piano psicologico, ci fa sentire in equilibrio con noi stessi, e mantenere una buona immagine di sé sia quando si è sani ma anche quando si è malati o si ha paura di essere malati è una cosa molto importante per migliorare il nostro successo e il nostro benessere. Poi invece c'è la questione del fatto di essere anche una potenziale spia di problemi. Certamente nell'uomo la difficoltà a concludere il rapporto sessuale, l'inefficienza dell'erezione può essere, come è già stato detto, una spia di una problematica vascolare o cardiovascolare, e quindi costituisce un campanello d'allarme. Sia nell'uomo sia nella donna può succedere che si avverta l'affanno respiratorio o il dolore toracico, tipo l'angina, proprio nel rapporto sessuale e non magari con un'attività fisicamente più impegnativa. Questo anche proprio per la componente emotiva associata all'attività sessuale. E quindi anche in questo caso può essere una spia, un campanello d'allarme. Quindi, dottoressa Frigerio, ai nostri ascoltatori chiediamo, se avete un cuore chiamateci 800 24 00 24, parlateci del vostro cuore, di come si comporta, di se batte per una persona e come si comporta quando fate l'amore. Se notate, no, dei segnali diversi, ad esempio questo affanno, parlate con noi se utilizzate le pillole dell'amore per sapere tutto e di più. Dottoressa Frigerio, spesso il medico di base, il medico di famiglia, da una semplice domanda potrebbe capire molto della salute di una persona. Potrebbe, ad esempio, non dico lei è innamorato, mi racconti come va il suo amore, ma cercare un po' di capire se ha una vita sessualmente attiva e soddisfacente potrebbe, no, aiutare anche il curante a raccogliere delle informazioni utili. Sicuramente sì, c'è da dire però che, come dire, molte volte noi siamo un pochettino reticenti nel parlare appunto della nostra vita sessuale e in generale nel parlare di tutto quello che non è strettamente legato, secondo l'opinione che abbiamo noi, a un problema medico. Mentre invece certamente conoscere anche le abitudini di vita e anche il livello di soddisfazione personale è utile al medico e prima di tutto quindi al medico di medicina generale, che è un po' il regista delle persone, degli assistiti, avere appunto un'idea globale dello stato di vita, anche se purtroppo poi noi medici non siamo in grado di correggere, di mettere a posto tutti gli aspetti della vita delle persone, no, compreso quelli. Bisognerebbe mettere su un'agenzia matrimoniale, no? Ecco, guarda, magari ecco. Facciamo una startup. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sui mercati. Sui mercati. E poi ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Frigerio. Mi raccomando, se volete prenotare i vostri interventi, se volete partecipare a questa iniziativa in cui vi chiediamo di postare magari la descrizione del vostro compagno, della persona che vi fa battere il cuore, se volete raccontarci o dirci la vostra ricetta dell'amore, vi aspettiamo. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Cuore e denari. Cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto. Cuore matto, cuore spezzato, cuore in gola, tuffo al cuore. Il cuore è uno degli organi più citati e menzionati dai proverbi, dei modi di dire, anche nelle canzoni, no? È una tradizione millenaria, lo vuole simbolo di amori e sentimenti, ma di fatto emozioni e percezioni, lo sappiamo, no? Sono prerogative del cervello. In ogni caso ci piace pensare che sia il cuore a custodire il nostro amore. Ne stiamo parlando con la dottoressa Maria Frigerio. Dottoressa Frigerio, eccoci di nuovo insieme. Volevo, dottoressa, ci sì, siamo. Eccoci. Volevo solamente proporle un SMS che arriva da un nostro ascoltatore che ci dice: la dottoressa ha detto che il cuore sta meglio quando la frequenza è bassa. Che cosa si intende per bassa e come possiamo organizzarci? Allora, possiamo dire che la frequenza normale a riposo varia tra i 55 e 75, 80 battiti al minuto. Il nostro cuore lavora di meno in generale quando la frequenza è più verso i 55 e 65 che non se stabilmente tra i 75 e gli 80, per esempio. Dopodiché, naturalmente, non è che tutti quelli che hanno una frequenza di base sui 75 si ammaleranno prima e tutti quelli che hanno 55 si ammaleranno più tardi o mai. Però, orientativamente, per esempio, l'allenamento fisico determina nel tempo una riduzione della frequenza dei battiti a riposo con aumento delle capacità di lavoro del cuore senza aumentare il dispendio di energie. E quindi, insomma, generalmente la frequenza dei battiti accelerata di per sé può anche essere oltretutto un indicatore di qualche alterazione o della nostra funzione cardiaca o per esempio della tiroide o di altre cose che possono disturbare il cuore o di un'anemia, e quindi va guardata con una certa attenzione. Ma dottoressa Frigerio, può essere una buona idea ogni tanto misurare la frequenza? O... Sì, tra l'altro è una cosa anche abbastanza semplice, sì? Senza diventare ossessivi, ma è una cosa che ciascuno di noi può imparare a fare. Bastano. Semplicemente rilevandola al polso. Infatti. È un, basta, ci sono pure le app anche lì, sullo smartphone. Sicuramente. Sì. Basta mettere il ditino, i miei nipoti ci vogliono giocare sempre. Allora, certo. Noi oggi, allora, il colore di oggi, dei colori del cuore, di questa puntata è il rosso. Vogliamo parlare di amore, vogliamo parlare di passione, vogliamo capire se fare l'amore fa bene al cuore e se le pilloline dell'amore possono aiutare, aiutare o danneggiare il nostro cuore. Allora, in linea con noi abbiamo il piacere di avere Andrea Salò. Eh no, che è già caduto? Va bene, ve lo anticipo. Ci raggiungerà Andrea Salogna di Salute Uomo, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, con cui abbiamo affrontato tante volte il tema della sì. disfunzione erettile e dei problemi che possono essere spia di un problema cardiovascolare. Ma, dottoressa Frigeri, abbiamo i nostri amici che ci stanno chiamando. Massimo da Roma e Franco. Sì. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Bene. Che dire? Che dire? Sull'amore posso far presente, io sono stato primario in un ospedale romano, ma una mia frase dice, dottore, a che età si invecchia? Quando mi viene la pressione alta, quando non mi ricordo certe cose, quando mi fa male l'anca, una malattia si invecchia, smette di amare. Bella, dottor Massimo, mi sembra è vero, si invecchia quando si smette d'amare, perché si spegne qualche cosa e poi l'amore è un po' il motore del mondo. E sembra banale, però nella vita di tutti i giorni possiamo verificare quanto sia vero questa espressione. Massimo, benissimo, Massimo, lei è innamorato? Non si sente più, ma spero di sì. Grazie Massimo. Franco della provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno a tutti, posso parlare? E deve. Bene, allora volevo dire alla dottoressa Frigerio che sdoganare l'amore clandestino così facilmente come ha fatto lei è pericolosissimo. Oltretutto il raffronto che ha fatto non è un raffronto equo, è, se mi passate il termine, anche poco corretto, perché raffrontare un amore clandestino, frizzante, vivace, allegro, con un amore stabile, bolso, stanco e affaticato, non è un confronto pari. O confrontiamo un amore clandestino frizzante e un amore stabile frizzante, o un amore clandestino bolso e un amore stabile bolso, altrimenti il paragone non regge. Dottoressa Frigerio, Franco propone insomma un'indagine. C'è un'occasione di chiarire il mio pensiero. Prima di tutto posso dire che il mio marito è una persona con la quale mi sono fidanzata quando avevo 16 anni. E con questo è detto tutto. Quindi personalmente non ho niente contro, anzi molto a favore, alle relazioni stabili che mantengono il loro interesse, il loro affetto e anche la loro, come dire, passione? Interesse e un po' di frizzante nel tempo. Quello che volevo dire è che non esiste una regola fissa, certo, per cui una cosa è bene dal punto di vista del rischio cardiovascolare e l'altra è male. Può essere in un modo piuttosto che in un altro. Certamente da molti punti di vista, come dire, una situazione che ci appaga affettivamente è quella migliore. E come dire, l'importante è riuscire a mantenerla e a mantenerla interessante anche quando il tempo passa e anche quando magari uno dei due nella coppia si ammala e magari si ammala di cuore. Allora, torniamo quindi, chiarito questo punto, torniamo a parlare di passione. A volte la passione c'è, ma come dire, non si accende. Al desiderio provato dal cervello non corrisponde una risposta dell'organo sessuale maschile. C'è un errore, una specie di errore nella comunicazione che può avere cause di origine diversa, potrebbe trattarsi anche di un problema cardiaco, neurologico, vascolare, ormonale. Comunque, meglio vederci chiaro, non sottovalutare questa spia. Lo abbiamo detto tante volte a Salute Uomo. In linea con noi è tornato il professor Andrea Salogna. Ciao Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, vogliamo ricordarlo Andrea, questo sì. aspetto, perché questa è una puntata in cui il cardiologo e l'urologo e andrologo vanno un po' a braccetto. Sono due specialisti che hanno tante cose in comune. Numerosissime, se posso dare un giudizio dovrebbero ancor più collaborare di quanto già non facciano, proprio per il benessere complessivo della salute maschile, che è una salute in questo caso sessuale, ma che si ripercuote a tutto tondo sulla salute generale dell'uomo, che ben si dice ha nel cuore da un lato e nella genitalità dall'altro due barometri, due campanelli d'allarme allo stesso tempo. L'abbiamo detto tante volte, spesso succede che soprattutto nei soggetti giovani, nei soggetti che hanno comorbidità, che sono in un modo o nell'altro comorbidità di tipo cardiovascolare, pensiamo solo all'ipertensione arteriosa, pensiamo in altri soggetti ai diabetici, ad esempio, bene, in quei soggetti la comparsa di un problema di erezione è prodromica e anticipatoria rispetto ad un problema cardiologico più serio, una coronaropatia per esempio, e i dati di letteratura sostengono e supportano l'idea che questa anticipazione del problema di erezione possa addirittura arrivare a 48 mesi, che vuol dire un lasso di tempo ampiamente sufficiente, spesso, per poter fare una diagnosi precoce di eventi coronaropatici, cioè cardiologici, che hanno sulla salute del maschio un impatto potenziale dannosissimo. Quindi è importante pensare di usare la problematica dell'erezione, quell'eccitazione genitale a cui tu facevi poc'anzi riferimento, proprio per considerarne l'importanza in termini preventivi, in termini di salvaguardia della salute tutta. E credo che questo connubio della figura dell'urologo, dell'andrologo e del cardiologo sia fondamentale, anche se vogliamo solo in questo senso. Dottoressa Frigerio, vuole aggiungere qualcosa? Un aspetto, una sottolineatura? Beh, devo dire che sicuramente concordo con quello che ha detto il collega. E tra l'altro, avere questo tipo di disturbi e avere una reazione conseguente, comunicarlo al medico e il medico magari proporre degli accertamenti se ci sono dei fattori di rischio cardiovascolare, può far parte di una strategia intelligente di prevenzione e di screening precoce della malattia vascolare, più che non fare magari tanti esami a tappeto su popolazioni non a rischio che poi ci portano a un ritorno modesto in termini di informazioni. Però appunto bisogna comunicare prima di tutto col proprio medico e che il medico sia informato. Anche perché in questo modo si riesce a inquadrare bene la situazione, a evitare magari dei danni futuri, certo. Perché abbiamo visto che possono essere considerate una spia di un problema cardiovascolare che può manifestarsi con successivamente, ma poi i problemi si possono anche risolvere. Ci sono tante soluzioni, parliamo delle pillole dell'amore che rappresentano sicuramente una terapia efficace contro la disfunzione erettile. Il nostro paese, ho letto i dati, si piazza secondo posto in Europa per la vendita di questi prodotti, anche se io non ho capito, chiederò naturalmente ai miei esperti di darci una spiegazione. Cioè, qualcosa non torna se secondo i dati in Italia solo il 20% degli uomini che hanno problemi di erezione ne fa uso, quando invece siamo al secondo posto, no? Forse si curano troppo quelli che non ne avrebbero bisogno e troppo poco quelli che invece avrebbero bisogno di terapie. Dottoressa Frigerio. Ma su questo punto forse potrà dare una risposta più chiara l'esperto, il collega urologo. Quello che si può dire è che forse qualcuno ne fa uso ma non lo dice, quindi chi monitorizza i consumi lo trova come dato di consumo, ma invece da un altro punto di vista questo non viene rilevato. Andrea. Nicoletta, guarda, il dato, se possiamo spendere due parole in questo senso, è di enorme importanza. Noi siamo in questi giorni impegnati a Stresa per il congresso della Società Italiana di Andrologia e ancora ieri, celebrando i 40 anni della società, gli andrologi hanno sottolineato come esista un iceberg di cui solamente la punta emerga, in cui possiamo riconoscere purtroppo solo il 10% dei pazienti che affetti da problematiche legate alla genitalità e soprattutto problemi di erezione effettivamente si rivolgono alle figure di specialisti da un lato, ma anche e soprattutto del loro medico di medicina generale per riferire un problema che, diciamocelo pure, nel nostro contesto sociale e culturale è ancora considerato un tabù della virilità e purtroppo non siamo ancora riusciti a fare brecce in questo senso. Beh, ci stiamo un po' provando con puntate come questa, certo. Con gli appuntamenti di Salute Uomo, qualche cosa abbiamo scalfito perché molti si rivolgono a noi proprio per chiedere consigli, Andrea, e indicazioni. è estremamente importante. Quest'anno, se possiamo dare ancora un giudizio molto pratico, Viagra compie 18 anni. Il 1998 sdoganò questa prima pillola e da lì molte altre che sono arrivate negli anni successivi. I 18 anni sono estremamente indicativi perché siamo diventati grandi in ambito di ricerca e di comunicazione, per cui quello che tu dicevi adesso, salute uomo e come salute uomo, che ben sappiamo è stata ampiamente poi seguita da altri, fondamentalmente hanno cercato di fare breccia in questo senso. Allora, però è vero, sì, esiste una discrepanza tra ciò che viene detto e ciò che viene acquistato. E poi allora, ma se voi, allora quindi all'ascolto, se avete dei problemi, se avete difficoltà di erezione, se state prendendo delle pillole dell'amore, volete saperne di più, restate con noi, ci sono delle notizie che i nostri esperti vi daranno, ci sono delle puntualizzazioni da fare, potete fare le vostre domande all'800 24 00 24. Noi andiamo con ritardo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Ultima parte di Cuore e denari, i colori del cuore. Oggi dedicata al rosso, parliamo di passione, parliamo di amore, ci stiamo chiedendo se fare l'amore fa bene al cuore e se l'utilizzo di delle pillole dell'amore possono in qualche modo rappresentare un rischio per il cuore. Dottoressa Frigerio, la palla passa a lei adesso. Sì, prima di tutto vorrei commentare le parole del collega quando diceva che da noi appunto parlare della vita sessuale, dell'attività sessuale, della disfunzione erettile e quant'altro è ancora un tabù anche dopo appunto che il Viagra diventa maggiorenne, per così dire. E certamente ha ragione, in generale parlare di sesso è considerato, anche magari a livello subconscio, sconveniente o trascurabile o meno importante rispetto ad altre cose. Devo dire che appunto quest'anno su uno dei numeri del Giornale Italiano di Cardiologia compare una lunga rassegna sulla vita sessuale e sulle cure dei disturbi sessuali nel cardiopatico. Devo dire anche che recentemente è stato pubblicato un lavoro che fa vedere che in una categoria molto particolare di cardiopatici, pazienti portatori di un cuore artificiale, la qualità di vita, la capacità funzionale di fare esercizio in generale aumenta molto, mentre invece diminuisce la soddisfazione nella vita sessuale e anche la predisposizione all'attività sessuale, perché questo tipo di apparecchio ha un certo impatto, certo, sull'immagine del sé e quindi come l'attività sessuale nel sano e nel cardiopatico sia legata non solo a delle condizioni fisiologiche ma anche a delle condizioni relative alla confidenza che abbiamo in noi stessi e alla immagine di sé. Detto questo, nel soggetto cardiopatico ci vogliono senz'altro delle attenzioni nell'utilizzo delle cosiddette pillole dell'amore, però non sono di per sé proibite e anzi possono essere utilizzate, seppure certamente con delle attenzioni, con delle precauzioni e assolutamente non con il fai da te, questo come premessa. Questa è per il cardiopatico, dottoressa Frigerio. Sì, e anche per quello che ha dei fattori di rischio che lo mettono in una posizione così intermedia tra la salute e la malattia, l'iperteso. Molte volte si considera sano e da un lato è bello che si consideri tale perché non è un soggetto invalidato da una malattia, però è un soggetto che ha una condizione che ha bisogno di essere trattata, di essere controllata, perché poi non si ammali in una maniera più forte. Il medico vede l'ipertensione come una malattia, naturalmente. Sì. E in ogni caso l'iperteso che si sottopone generalmente a un trattamento multiplo con farmaci non è che non può utilizzare questi farmaci, ma li deve utilizzare con una certa precauzione riguardo, per esempio, alla distanza oraria rispetto agli altri farmaci che prende, in dosi note e controllate, e sempre appunto con un consiglio di natura personalizzata. E allora, consigli di natura personalizzata da richiedere al medico, ma noi abbiamo anche gli ascoltatori che si rivolgono ai nostri esperti, che prenderanno spunto dalla loro richiesta per dare delle indicazioni a voi che ci state ascoltando, e partirei, Deborah, se tu sei d'accordo, da Lucio da Napoli, che si è candidato da un po' e lo naturalmente ospitiamo volentieri. Lucio, benvenuto. Grazie, ho 75 anni, innamoratissimo di mia moglie. Bello. Ma le pillole che prendo per la pressione e per l'ipertrofia prostatica di cui soffro mi procurano una scarsa erezione. Allora, Andrea? Guarda, il caso del nostro amico è diffuso. Apre veramente un campo molto diffuso, giustamente come dicevi tu, nel senso che lui ha sottolineato due aspetti significativi, problematiche da un lato cardiovascolari e dall'altro fondamentalmente l'ipertrofia prostatica e disturbi nel far la pipì. Entrambe queste due condizioni, come pure i problemi di erezione, hanno spesso i medesimi fattori di rischio e il medesimo meccanismo alla base. Però questo nostro amico può sicuramente cercare di avere un supporto dall'assunzione di farmaci. Prima abbiamo nominato queste pillole dell'amore, tutti gli studi nell'arco degli ultimi 20 anni ci dicono che esista una molecola un po' sartorialmente applicabile a ciascun individuo, cioè ad oggi c'è sempre di più la tendenza, come giustamente diceva anche la nostra amica cardiologa, che si vada a vestire ogni paziente con la pillola più giusta e con le tempistiche più giuste, in termini peraltro di dosaggi, di tipologia del farmaco, e sono abbastanza certo che il nostro ascoltatore non potrà che trovarne giovamento anche in termini di erezione. Allora, raccogliamo l'invito di Silvano e di qualche altro ascoltatore che ci dice che la sessualità e il rapporto sentimentale sono due cose diverse. Noi abbiamo iniziato a parlare del cuore che batteva per una persona, perché ecco, poi abbiamo in parte sdoganato l'amore clandestino, sottolineando, come ha fatto il dottoressa Frigerio, che non è necessariamente un rischio per il cuore, non vogliamo entrare né un auspicio nei alle relazioni clandestine. Adesso noi parliamo di sesso, parliamo di attività sessuale. Perché ne parliamo? Perché l'attività sessuale può essere una spia, mi piace dire una cartina tornasole, meglio così, del benessere del cuore dell'uomo. Per cui ne parliamo con la dottoressa Frigerio, con cui stiamo portando avanti questa bellissima iniziativa Il Colori del Cuore, e con il professor Andrea Salonia, con cui noi da anni stiamo portando avanti una volta al mese Salute Uomo. I due temi, un tema quindi che vede il affiancarsi due esperti, il cardiologo e l'andrologo urologo, e che speriamo sia utile a voi per darvi le indicazioni. Infatti i nostri messaggi i vostri messaggi sono molto numerosi, segno che avete bisogno di parlare e di tirare fuori quello che per paura, per una serie di ragioni, fate fatica a comunicare al vostro medico. Allora, dottoressa Frigerio, siamo agli ultimi minuti di trasmissione. Vogliamo fare una sorta di decalogo? Se il decalogo è troppo lungo, fissare un bignamino e un'indicazione, una raccomandazione agli ascoltatori? Beh, dunque, probabilmente il decalogo è un po' diverso a seconda di quanti anni abbiamo, di quant'è il nostro livello di salute, da che cosa abbiamo, se abbiamo già dei farmaci che dobbiamo prendere, eccetera. Però fondamentalmente, se possiamo farlo in estrema sintesi, è questo: evitare tutto quello che fa male alla nostra salute e al nostro cuore in generale ci aiuta anche a stare meglio dal punto di vista dell'efficienza fisica e anche, perché no, dal punto di vista dell'efficienza nell'attività sessuale. Per esempio evitare l'eccesso di alcol, evitare il fumo e tutto quello che previene le vasculopatie previene anche, per quanto è possibile, la disfunzione erettile. Seconda cosa, evitare il fai da te nell'uso dei farmaci e quindi anche nell'uso di questi farmaci. Terza cosa, sì, rompere i tabù, che vuol dire fare le domande chiare e cercare di avere delle risposte chiare dal proprio medico ed eventualmente dagli specialisti, e non accontentarsi di chi ci dice che ci dobbiamo accontentare. Quarta cosa, sì? Evitare di sovrapporre i farmaci e evitare di ripetere quello che ci ha fatto male. Se abbiamo preso due farmaci uno vicino all'altro, di cui magari uno di questi era una pillola dell'amore, e non siamo stati bene, evitiamo di fare un secondo esperimento, torniamo dal medico e parliamone. Ma come diceva il collega urologo, in molte situazioni si può migliorare il benessere complessivo della persona conoscendo noi stessi, la nostra malattia, i nostri desideri e il pacchetto di farmaci che dobbiamo prendere. Forse non sono 5, 10... Non le abbiamo contate, ma ci sono. No. Allora, Andrea, un saluto da Stresa, una novità in 30 secondi di questo convegno, prima che ci sfumino per il nostro GR? Beh, innanzitutto è che è utile andare da una figura giustamente senza fare il fai da te, come diceva la dottoressa Frigerio. In questo convegno questo concetto è stato ampiamente sottolineato, perché in realtà si può fare medicina personalizzata anche e soprattutto nel mondo andrologico, associando le proprie conoscenze a quanto i cardiologi, i diabetologi, gli ipertensivologi, i nefrologi ci suggeriscono, e si può arrivare veramente a costruire, tra virgolette, costruire, a personalizzare, sì, la terapia più giusta al momento più corretto. Grazie, per oggi è tutto. E noi torniamo domani, naturalmente saremo puntualissime, va bene, sarò sola, lo anticipo già, così per tutti coloro che rimarranno delusi, lo sanno in anticipo, recuperiamo mercoledì. A domani. Buona giornata.